M come macchina da guerra col giubbotto in Kevlar. Sono un prototipo, tu protosperma. Fumo un botto d'erba, sto volando. Troppo in alto, troppo merda, manco tocco terra. Sempre fatto in malo modo quando stavo sobrio, strano proprio. Un bambino dell'orfanotrofio. Dopo dagli abissi ho fatto un botto clamoroso. Se mi dissi ti sei fatto troppo come Palo Rap show, cypher, headshot, sniper. Faccio a fette Wesley Snipes. M tipo Elvis Presley, Lively. Mette sotto al 7 tipo Wesley Snyder. Barre da uno scrigno, una penna al curaro. Il ghigno, il tiro maligno, giunigno per l'ambucano. Stupido non, supplico il pubblico flow. Unico, la tua tipa la illumino col lumino. Sono la morte delle nuove leve. Salgo al 7 Heaven, schiaccio mezze seghe. Ammazzo prede con un Black and Decker. Vinto magnaccia, dai la caccia ai rap maniac. Assado ogni tua minaccia, una borraccia di Jack Daniels. Uno di sti bastardi me la paga cara. E Prassi prende schiaffi come i fasci giù a Guadalajara. L'esodo dei cani pazzi, taci Barbie, brani incastri. Pari spari e sbrani scarsi col metodo Stanislavski. 20 morti, un macetero, sto nel matto grosso. Se mi tocchi esplode il mondo intero, sono il tasto rosso. Tre persone in testa che odio mi hanno fatto un mostro. Quindi è un tuo problema se sul podio non c'è il quarto posto. Se incendio la tua chiesa è perché pure Dio mi ha rotto. È una pretesa, prendo ciò che era già mio e mi ha tolto. Non c'è un king in questa scena, allora sarò io d'accordo. C'è la testa del tuo re che già pesa nel mio strotto. Dal primo giorno ci ho sputato rabbia su sto foglio. Welcome in the hood, rap dal sud, sanguisughe intorno. Un disco d'oro in più e qualche amico vero in meno. Chi sperava è morto, ti aspettava sto cielo sereno. Sta vita under a scelta, nasce, vive e muore. Fino a quando non da cascio season dopo solo. Puccio a tutte capodanni, brinda un anno nuovo. Perché che ogni giorno è l'urde ma a disposizione. Macete, non si compete, King Supreme leggenda. Fumo un petardo d'erba e rido sul tuo rap di merda. 20 anni manco e sono stanco di st'ambiente. La ricchezza va trovata nel sorriso di chi non ha niente. E non è colpa mia, non dice caso pessimista. Negatività sta rinda cool, mentre trisce nato room. O coro che fa boom, si è nato moon. Ci pigliate giù, a gioia mio stipendio è tutta giù. Macete Psycho White, check my kit, Michael Knight. Tu sei sfigato, resti a casa, aspetti il pacco Nike. La tua tipa è figa, sfila con 2 gigabyte. La verità c'ha sempre un doppio fondo tipo Samsonite. Flow pietà alcuna, la mia metà oscura. Sto in altura, ad un passo fra il tetto e la luna. Dritto al cuore, endorfina, in questo thriller indovina chi è l'attore. Nel fottuto nome del Signore. Salmo, sempre salmo, ripeti salmo. Tu sei pazzo a dirmi di stare calmo. Rap su piedistallo, le palle, il cazzo di marmo. Tu non sei l'uomo dell'anno, sei uomo da un anno. Quando sto mostro parte fra, parte il padre nostro. Come si sta da questa parte bra, sta a posto. Il rap fa la sua parte, farò il rapporto. Quando capisci la mia arte sarò già morto. Senti qualcosa è cambiato, non ho coscienza perché non ho più un passato. Tre notti senza sonno e non ho ancora festeggiato. Ma dovrei perché il tuo rapper preferito si è ammazzato. C'è un vuoto nel mercato, non sanno come riempirlo. Per loro il rap è calcio mercato, funzioni se sei un buffone, un pirlo. Come hai fatto a non capirlo prima? Nicotino, merda che inquina la city come i tipi in olgettina. Tu bestemmi il mio nome quando lo dici. Non hai radici, sei solo un puppet, sei un moncici. Vorresti uscire con la gente che è uscita da amici. Tu quando rimi non uccidi, lasci cicatrici profondi e tristi sulla faccia dello schermo. Cosa vuoi che me ne fotta se non faccio rap moderno? Sto vero col mio gruppo, a questa scena tu non servi. La mia è una foto di gruppo, la tua è un selfie. Mira quanta gente come mierda. Perdon marica, però tu ya sabes quien gobierna. Mi lengua se trasforma en un machete corta pierna. Se el nombre de mi cruz si lo recuerdas, ahora jala esa cuerda. Aprende que mis panas no se paran nunca. Si te aplastan lo hacen con orgullo, sin pedir disculpa, nada fiesta, nada rumba. Traigo solo rimas brutas, traigo mala suerte como el gato negro cuando cruza. Cada idiota que me pone a la prueba, me hago joyas nuevas sacando sus muelas y sigo a rueda. En esta battle se queda solo quien pega, huevón. Yo tengo hambre y no me quedo sin cena. Dime puto quién dispara, si tienen balas trucadas. Tu respiración se acaba la primera entrada, bestial. Esta es Battle Royale, a.k.a. tu final, a.k.a. Flow Mundial. Bam, bam, bam, bam, bam. Ok, parto, senti nell'impatto, sbatto sopra l'emozione con i versi di infarto. Ombre tu sul palco, ora più abbassi lo sguardo. E sinestesia se con i suoni ti imbratto. Calmo, visto che che non sei il messia, ma c'è Teros dinastia. Strofe come un golpe se fai tirannia. E non ti piaccio però, ahimè, c'ho stile. Capocannoniere faccio Jaimes Rodriguez. Ammira di talenti una fucina, vi mettiamo in fila, flow da carabina, carica e fucila. Ogni fan delira e resta sorpreso. Scuola di pensiero nuova, tetto sospeso. Dito sul tuo timpano, tu che sfondi sì ma no. Io ti gonfio il naso e sembri Sirano. Ma li supremi su una traccia sola, bella storia. Quando rimo apro il vaso di Pandora. Il suono rompe i vetri di una panca, ribassa dentro la tua panda. Per la strada pare G-Funk. Casa mia de birra, portane 6 litri. Sulla passe con gli artigli come le tigri. The black metal slug, rap spara tutto. Quando suona la mia squadra vestiti a lutto. Quando c'è da dai il gas, daglielo tutto. Bomba sempre, bomba in quantità, dappertutto. T'ho visto giù che la tua musica non vende più. Puoi dire in giro che il mio crew t'ha fatto un bel voodoo. Sul tempo stai sfidando il meglio, Einstein. Io cavalco un caccia, te stai dove stai. Firmo il terzo macete, tu prenota il sequel. Manda ste ragazze in orbita sulle comete. In cima alle pareti e le cartelle c'è sto nome. Finché non muori in una barca del banco no. Mi succhi così tanto il cazzo che ti tocco una tonsilla. Flowzilla, la visione si sconsiglia. Lei strilla, mentre apro lui tipo conchiglia. Flowkilla, torni in poltiglia in una bottiglia. Sul volto una calza di nylon, tiranno, titano, li straio, sti T-Nylon. Sbitraio, liricalmente sicario, contro me un suicidio, come camminare su un binario. Sta merda in droga e crepi senza, resti muto in penitenza. In alto presidenza, chiamami sua eminenza. Ho visto la tua tipa in buchi aperti come il chakra. È così bacca che in India la fanno sacra. È amara, sul beat meno sacara. I miei ti scuotono come maracas, sparisci come giù a Caracas. Da sti chilo un star, fine ingiusta, ma tu stasera torni in una busta nera. Vuoi qualcuno prendi me? Ci si spezza intendi ne? Con le buste nel gilet. Da quando ne ho 23. Senti me. La tua ex ragazza è ancora vergine. Rappo e le guardie esplodono come in Sentinel. Mille rime sulle torte come ciliegine. Mancetti ghigliottine danno morte a chi ci opprime. Vuoi la merda? Ti ci posso ricoprire. La tua crew fa meno brutto delle mie nipotine. Spezza ossa senza testa rossa. Fotti con la merda nostra. Ogni rima è una bomba. Dialetta Ocean. Senza sosta nella giostra per la fetta grossa. Benedizione senza Dio, chiesa senza ostia. Alle serate, vomito entro in lista. Il barista torna a casa col comito del tennista. Guardami bene sul monitor che registra. Mentre ti mostro quanto non me ne frega un cazzo man. No problema, scaccio la scena come una valigia piena. Rubo la canna di chi grema. Da una vita scrivo classici, nostro fette. Quando inizio con sto rapper faccio costolette. Questi li stermino, li termino. Ste troie sono cagne, non le svergino, le svermino. Smisi e los amigos con la droga Silos. In auto io mi pompo i migos, tu ti pompi digos. Puoi pure stare zitto, ho detto già tutto. Niente fa diesis perché ciò che ho scritto fa brutto. Io sempre qua, anatra, sempre canapa. Viaggio avatar, is the joint, narara. Tiro legne, rima adulte, i bimbi fanno gne gne. Schizofrenico perché io schizofrenie. Vita folle, sì, però domani muori tu. La mia cura sono i soldi fra le mani, mani cool. Bam, bam, bam, bam, bam, bam.